Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi vi promettiamo un'altra puntata imperdibile, una nuova tappa del nostro viaggio in quella Italia che costringe i giovani migliori a fare le valigie e andarsene. Lo faremo raccontandovi un'altra storia rivelatrice. Ma per cominciare vi ricordiamo che è ormai pienamente attivo il blog internet di Giovani Talenti che potete trovare sul sito di Radio 24, all'interno del quale stiamo pubblicando gli interventi dei giovani espatriati, protagonisti delle nostre puntate, dei decision makers e di voi ascoltatori. Ma torniamo alla storia odierna. Siete giovani? Avete voglia di lavorare e affermarvi professionalmente? Non avete le parentele giuste? Vi mancano raccomandazioni o cooptazioni? Avete soprattutto voglia di guadagnare un salario dignitoso? Beh, allora meglio andarsene. Sono stata proprio chiamata dal capo del dipartimento che mi ha preso da parte dopo la vittoria del mio dottorato, dicendomi specificatamente: tu sei l'unica che l'ha vinto per merito, gli altri sono stati tutti raccomandati. Ah, bene. Ottimo. Devo dire che precisazione che non avrei neanche voluto sapere, perché come al solito l'ho fatto per passione. Maria Cristina Sorvillo, 39 anni, è un architetto che vive in Gran Bretagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Mettere assieme 10 idee per cambiare l'Italia, è questo l'obiettivo di Italia Camp, l'associazione composta da giovani laureati, ricercatori, imprenditori e liberi professionisti e presieduta dal direttore generale della LUISS Pierluigi Celli. L'iniziativa si basa sulla metodologia del Bar Camp e ha l'obiettivo di stimolare e raccogliere in 4 città diverse, Roma, Milano, Lecce e Bruxelles, idee e progetti per lo sviluppo e l'innovazione del nostro paese. Nicola Accardo ha intervistato Celli, che ci spiega come è nata l'idea. Anche come risposta a tutti i problemi sollevati dalla famosa lettera che avevo scritto al figlio, è come operazione positiva, nel senso di dire: beh, vediamo di fare qualcosa, visto che la situazione è di questo tipo, cercando di mettere in mano ai ragazzi, laureandi e laureati, che stanno cercando lavoro, che si sono appena occupati, che sono alla ricerca di un secondo lavoro, eccetera, eccetera, una operazione tale per cui, come dire, si possono impegnare, possono tirare fuori le idee e possono realizzare qualcosa. È un'iniziativa che occuperà migliaia di persone in Italia e anche all'estero attorno a delle idee da realizzare che occuperanno quantomeno un anno di lavoro. Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero, porta a questo titolo l'articolo 44 della manovra finanziaria attualmente all'esame del Parlamento. Ai fini delle imposte sui redditi, si legge nel testo, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno 2 anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i 5 anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia. Presentato la scorsa settimana dai ministri Maria Stella Gelmini e Maurizio Sacconi, il piano d'azione per l'occupabilità dei giovani Italia 2020, tra le priorità individuate, facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro, rilanciare l'istruzione tecnico-professionale e il contratto di apprendistato, ripensare il ruolo della formazione universitaria, così come l'utilizzo dei tirocini formativi, aprire i dottorati di ricerca al sistema produttivo. La premessa e ambizione del progetto sono i giovani, da cui ripartire con le loro energie e i loro talenti per costruire l'Italia del futuro. L'emigrazione verso il nord Italia è ripresa alla grande, è questa la drammatica denuncia di Monsignor Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo. Solo in Sicilia si parla di 60.000 persone che sono andate in altre città per cercare lavoro. Sono soprattutto giovani precari, ha aggiunto il presule, secondo il quale la situazione nelle regioni meridionali è molto grave. E 9 giovani scienziati lombardi di età compresa tra i 20 e i 30 anni parteciperanno tra domani e il 2 luglio al 60° Lindau Meeting dei Nobel Laureates, in programma sul lago di Costanza, dove potranno incontrare 50 premi Nobel e altri 600 talenti da tutto il mondo attivi nei settori della medicina, della chimica e della fisica. Spazio ora alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una financial manager al segretariato di Southeast Europe con sede a Budapest, richiesta la laurea e almeno 2 anni di esperienza nel settore finanziario, scadenza per i CV 4 luglio, info su southeast-europe.net. Un conference and events manager alla European University Association di Bruxelles, si occuperà dell'organizzazione degli eventi, richiesta la laurea, scadenza per i CV 30 giugno, info su eua.be. E infine un group leader per il Nano Analysis Group al National Physical Laboratory di Londra, richiesta una laurea scientifica. Scadenza per i CV 2 luglio, info su npl.co.uk. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Londra, una delle città teatro della nostra nuova emigrazione professionale. Parliamo oggi di architettura. Nome: Maria Cristina. Cognome: Sorvillo. Età: 39. Città di origine: Roma. Studi: dottorato di ricerca in composizione architettonica, laureata alla Sapienza con Miralles. Anno in cui hai lasciato l'Italia: inizio 2006. Per andare dove? A Londra. Perché? Miglior stipendio, miglior condizioni di lavoro, rispetto alla professionalità dell'architetto. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono titolare della Green Age, che si occupa di progettazione e architettura sostenibile e design and build. Dove? A Londra. Tornerai? Sì, ma l'idea è quella di lavorare a cavallo tra l'Inghilterra e l'Italia o comunque con l'estero. Planet Funk, Who Said, Stuck in the UK, intrappolata nel Regno Unito, potremmo tradurre. Allora, Maria Cristina, tu nel Regno Unito vivi ormai dal 2006. Per capire come ci sei arrivata, vorrei partire dalla email con la quale ti sei presentata ormai qualche mese fa a Giovani Talenti. Sono un architetto italiano che vive a Londra da più di 3 anni, dopo aver tentato in ogni modo di lavorare in Italia per più di 10 anni, esercitando la sua professione. Ho provato la carriera universitaria dopo aver conseguito per merito un dottorato di ricerca, il posto pubblico, il posto in azienda privata, l'attività professionale in proprio, ma con nessun risultato. La cultura architettonica nel nostro paese è ancora indietro e ancora di più lo è il riconoscimento della professionalità in questo campo. Non c'è proprio speranza per i giovani architetti, è la domanda che ti giro, Maria Cristina. Giovani architetti di talento qui in Italia? Sicuramente c'è una speranza, ovviamente c'è una speranza. Secondo me la chiave di tutto è la passione, che poi è anche il motivo per cui mi sono spostata da un posto all'altro. Bisogna avere convinzione nelle proprie scelte, avere la passione per il lavoro che si fa, ed è quello che mi ha portato anche qui in Inghilterra alla fine. Però lo spazio anche in Italia secondo me c'è, anche se bisogna fare un po' più di fatica nel costruirselo e creare delle opportunità. E qui sta il punto, fare un po' più di fatica per costruirselo, ma partiamo dal tuo percorso di studi. Ti laurei all'Università La Sapienza di Roma, con una tesi interamente giocata tra l'Italia e la Spagna, in particolare sullo stadio Nou Camp di Barcellona. Tuo mentore, il famoso architetto catalano Enric Miralles. Come nasce questa esperienza e quale valore aggiunto poi porta all'inizio della tua carriera? È stata un'esperienza fondamentale, mi ha dato un'apertura mentale alla mia conoscenza e cultura accademica notevole e soprattutto una fiducia nelle mie capacità, poter fare, progettare e relazionarmi con un grande come lui. Entri nel mondo del lavoro vincendo un dottorato per merito e non per raccomandazione. Mi piace questa precisazione che fai, perché forse dove vivi attualmente non sarebbe poi così necessario farla. Allora, qual è stato l'argomento del tuo dottorato che ti ha portato una prima volta, ricordiamolo, in Gran Bretagna? L'argomento è stato già innovativo di per sé, nel senso che è tra l'uso del computer, che nel 2000-2001 era ancora, diciamo, embrionale, a livello embrionale, e soprattutto l'uso di alcune geometrie non euclidee in alcuni software, e lo sviluppo della progettazione architettonica legato alla residenza. Quindi è un tema molto innovativo che in Italia hanno apprezzato sicuramente, ma che era visto un po' come una mosca bianca e non ho potuto, diciamo, avere il supporto necessario per sviluppare. Quindi da sola mi sono spinta già in Gran Bretagna per poter avere un supporto adeguato. E tornando a quella precisazione che hai fatto quando ci hai scritto, per merito e non per raccomandazione, perché ti sei sentita in dovere di farlo? Perché sono stata proprio chiamata dal capo del dipartimento, che mi ha preso da parte dopo la vittoria del mio dottorato, dicendomi specificatamente: tu sei l'unica che l'ha vinto per merito, gli altri sono stati tutti raccomandati. Ah, bene. Ottimo. Devo dire che precisazione che non avrei neanche voluto sapere, perché come al solito l'ho fatto per passione. Sì, fa un po' male anche sentirla questa precisazione forse. Tu però sei stata anche assistente, hai frequentato diverse università. Che idea ti sei fatta dei metodi di selezione della classe accademica? Quanto pesano gerontocrazia e cooptazione? Molto, sicuramente molto, spero che in questi anni o comunque in futuro le cose vadano a migliorare e che ci sia un riconoscimento più meritocratico per tutto il lavoro che viene fatto dietro le quinte, chiamiamolo così, nell'ambito universitario. Nel mio campo posso dire che ho sperimentato molto il fare la fila, il mettersi in fila, aspettare il proprio turno, anche quando comunque lo si meritava più di altri. Forse ci sono delle smagliature nel sistema perché io mi sono inserita, quindi in qualche modo si può fare. Qualche piccola smagliatura c'è, però c'è questa fila. Sei competente, hai un valore, ma c'è sempre la fila da fare. In Italia, all'estero no, chissà perché. Passiamo anzi alle tue esperienze lavorative. Approdi in uno studio, il primo, dove, come dici tu, lo stipendio lo vedevi una volta l'anno, ma almeno la qualità del lavoro era buona? Era molto buona, è proprio quello che in realtà attira, è che si fanno dei progetti interessanti, ci sono delle cose bellissime sul tavolo, ti danno anche delle responsabilità e quindi comunque ti metti in gioco, quindi anche una volta la passione ti aiuta moltissimo a superare questo tipo di situazioni, però purtroppo la qualità della vita poi ci rimette se vuoi avere un qualche futuro e costruirti una tua realtà al di fuori di quella lavorativa. Ecco Maria Cristina, ti cito da internet un post che ho raccolto sul blog Giovani Architetti Sfruttati, dove si scrive testualmente: insoddisfatti del trattamento di collaborazione con lo studio in cui lavorate, pagati dai 4 euro all'ora ai 6 euro all'ora, andate a lavorare per le cifre sopra indicate e dovete anche pagare il parcheggio benzina, lavorate per un numero di ore maggiori a 10 al giorno senza alcuna gratifica. Maria Cristina, sono davvero queste le condizioni di lavoro per un giovane architetto in Italia che entra nella professione? Al momento in cui sono entrata io sicuramente sì, si viene pagati meno di una colf, si fa il lavoro intellettuale che a volte è molto più pesante di quello fisico ed è difficile, sono sicura che ci sono delle motivazioni a monte, però la condizione è sicuramente questa, ti devi pagare il pranzo, ti devi pagare la benzina, tutto, e ovviamente ci sono studi che ti trattano diversamente, ma purtroppo la media è questa. C'è anche la tua esperienza all'ufficio concorsi comunale, dove creavi un problema perché lavoravi, è vero? Sì, ho fatto un anno di esperienza presso il comune di Roma, credo anche dando un buon servizio in generale. Dopo un anno il direttore dell'ufficio mi ha preso da parte dicendomi mi piacerebbe potersi rinnovare il contratto come privato per seguire alcune cose che dobbiamo fare, ma purtroppo si creano degli squilibri interni perché sei produttiva, sei reattiva e qui le cose sono più lente, si muovono più lentamente a un metro diverso da quello in cui lavori tu. A volte ho la sensazione che sia un po' il passo di questo paese, che è lento rispetto al mondo che ci circonda. Farei un'esperienza analoga anche a livello regionale, dove il motto, tu dici, era non lavorare troppo, però c'è poi un altro tuo passaggio in azienda dove sei capo progetto, project manager, stipendio sicuro, ma scopri, come dire, il paese dei parenti di. Quanto incide questo sulla mancata produttività e sulla strage di meritocrazia, soprattutto su chi è outsider e cerca di farsi strada da solo? Ma incide molto anche qui, perché comunque se sei scelto per meritocrazia è perché devi fare anche un po' il lavoro degli altri, mettiamola così. Sicuramente progressione di carriera c'è stata, sicuramente progressione di stipendio c'è stato, miglioramento di qualità del lavoro, diciamo il tempo dedicato al lavoro è sempre moltissimo, senza orari e in realtà prendendosi anche le rogne che i parenti di non si volevano prendere. Quindi, perché diciamo nell'impresa dove stavi poi alla fine hai scoperto il 95% dei dipendenti erano parenti del titolare, questo ecco per spiegare meglio. Maria Cristina, secondo te l'Italia è un paese dove il talento può germogliare, diciamo anche con facilità, ecco, perché dovrebbe essere così in teoria? Ma secondo me noi siamo il paese dei talenti, noi siamo il paese dei talenti, te lo dico da italiana all'estero, in cui quando dici che sei un architetto italiano le persone gli brillano gli occhi per la fantasia, per la passione, per la qualità del lavoro che gli puoi dare. Il problema è maturare questo talento all'interno del nostro paese. Manchiamo purtroppo di concretezza e di reali capacità imprenditoriali che anche giovani talenti possano mettere nel sacco e fare la loro strada, portare con sé, secondo me. Maria Cristina, arriviamo ora al tuo passaggio nel Regno Unito e vorrei però focalizzarmi sul processo selettivo, perché tu invii dei curriculum, fai dei colloqui addirittura al telefono, sostieni i colloqui al telefono e in qualche modo diventi manager di te stessa, potremmo dire, arrivando a rifiutare delle offerte di lavoro oltremanica e poi alla fine ti assumono. Raccontaci un po'. Ho mandato curriculum in tutta Europa, devo dire, non solo in Inghilterra, perché volevo andare all'estero e vedere cosa c'era di diverso, se effettivamente le cose erano diverse. Dall'Inghilterra mi chiamavano 2-3 volte al giorno su cellulare italiano, dovunque, ferma in mezzo alla strada a fare colloqui per mezz'ora con aziende, e l'impressione che ebbi fin dall'inizio era quella che loro la mia esperienza la riconoscessero appieno, le mie capacità professionali, ci fosse un adeguato spazio per poterle esprimere e soprattutto che offrissero un salario adeguato al tipo di professionalità che io gli potevo portare. E da qui una serie di colloqui fisicamente a Londra, viaggi andata e ritorno, e scegliendo. Tu poi, una volta approdata in Inghilterra, cambi vari studi fino ad avviare una tua scommessa personale. Raccontacela molto in breve. Ho incontrato degli colleghi con cui ci siamo trovati bene, la passione, condividiamo la passione per la sostenibilità ambientale, che qui in Inghilterra, come tutte le cose, prendono molto sul serio. Quindi abbiamo cominciato a fare dei piccoli concorsi privati, soprattutto, vincendo un paio di progetti importanti per delle nuove esperimenti su residenze sostenibili. È una cosa bellissima, credo che in Italia forse la vedremo tra diversi anni. Speriamo. Maria Cristina, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? L'Italia vista dall'estero fa un po' impressione, sinceramente, è abbastanza il paese dei burattini, come ci dipingono qui purtroppo. Poi abbiamo tante cose positive sicuramente, come dicevo lo riconoscono anche loro, però siamo sempre presi poco sul serio. Secondo me dobbiamo prendere sul serio il nostro paese. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Maria Cristina Sorvillo, 39enne architetto italiano di stanza a Londra. Maria Cristina è approdata oltremanica, al termine di una lunga trafila lavorativa in Italia che l'ha vista tentare la sorte su più fronti. Il settore accademico, quello pubblico e quello privato, dove ha sperimentato via via tutte le principali disfunzioni del sistema paese. Gerontocrazia, cooptazione, parentele, stipendi bassi o inesistenti, assurde gare a chi lavora meno. Alla fine di questa, diciamo, traversata nel deserto, Maria Cristina affronta diversi colloqui in Gran Bretagna, dove giungerà prima come dipendente per poi divenire titolare di un proprio studio di architettura legato alla sostenibilità ambientale. Ci raggiunge ora in linea Gwendalina Salimei, architetto romana, che invece ha deciso di restare in Italia e di provare a farsi strada qui. Anche se va precisato, Gwendalina mantiene un ampio ventaglio di collaborazioni e progetti con l'estero da perfetta globalizzata, e nel 2008 è stata eletta architetto dell'anno dalla rivista Edilizia e Territorio del Sole 24 Ore. Gwendalina, allora è possibile farcela anche in Italia? Può essere. Ci stiamo provando, diciamo. Direi che è possibile, sì. Qual è la ricetta? Io direi una gran passione, in questo sono molto d'accordo con Maria Cristina, e soprattutto forse una grande tenacia, nel senso che in Italia ovviamente le questioni sono molto più complesse, è più difficile e probabilmente, diciamo, gli sforzi sono di più. Però, diciamo, nelle maglie di un sistema piuttosto ingarbugliato ci si riesce, ce la si fa, ecco, diciamo, ce la si prova. Ecco, Gwendalina, quanto si parla sempre di caste, di ordini, di corporazioni, una è quella giornalistica, per esempio, però c'è anche l'ordine degli architetti. Questo secondo te pone un po' degli ostacoli, dei freni? L'ordine non è un elemento così, diciamo, discriminante. Il problema è sicuramente un problema nell'università, sicuro, perché l'università chiaramente è ancora una macchina piuttosto lenta, ed è un po' difficile anche nel mondo professionale, perché nel mondo professionale ovviamente, a parte gli incarichi pubblici che si prendono per concorsi, il resto avviene con i privati, e quindi i privati dipende, insomma, dalle conoscenze che uno ha. Quindi la libera professione chiaramente è sempre legata anche a degli ambiti di opportunità e di potere, questo senza dubbio. Opportunità e potere, cioè le connessioni? Beh, delle connessioni o comunque degli ambiti giusti, è ovvio, se si è in un sistema giusto probabilmente si lavora di più, però nel caso nostro e nel caso mio, diciamo, abbiamo puntato molto sull'attività pubblica, quindi sull'architettura pubblica fatta dagli enti, e quindi questo avviene invece tramite concorso. I concorsi di architettura vengono banditi dagli enti, dai comuni, e dalle regioni, dagli enti pubblici, si concorre sul progetto e quindi lì in effetti effetti, se i concorsi fossero, diciamo, tutti trasparenti, ci sono dei margini importanti, perché si concorre su delle idee di progetto e quindi in qualche modo vince chi ha l'idea migliore. Mi è piaciuta la tua precisazione, se i concorsi fossero tutti trasparenti, però una domanda da farti sulla retribuzione dei giovani architetti, soprattutto a inizio carriera. Perché si finisce per lavorare quasi sempre gratis? Questa è una denuncia che fanno in molti. Ma questo, diciamo che avveniva molto prima, adesso avviene un pochino di meno, perché la generazione nuova ovviamente non ha molto più intreccio, cioè noi abbiamo lavorato per tanti anni abbastanza gratuitamente, però è chiaro che, diciamo, il problema dello stipendio in Italia mi sembra raffrontabile un po' a tutte le problematiche, come gli stipendi statali, gli stipendi di tutti, sono tutti un pochino mediamente più bassi, anche quello dell'università. Io oggi che sono, diciamo, dentro l'università, so che il mio stipendio non è paragonabile assolutamente a un mio collega nell'Europa, perché il mio collega europeo guadagna molto di più di me. Guendalina, una cosa importante, perché tu lavori anche molto con l'estero, la creatività italiana all'estero, in questo caso in campo architettonico, è apprezzata? La creatività italiana è apprezzata moltissimo, ne viene riconosciuto un valore, cioè viene riconosciuto un valore al pensiero e quindi alla capacità di immaginarci scenari nuovi, di capire problematiche complesse, di metterle a sistema, e quindi questo non si può fare solo con la creatività. Maria Cristina, hai una domanda per Guendalina? Come sta cambiando l'università e i ricercatori nell'ambito dell'università? Sento che ci sono molte novità. Stiamo facendo degli scioperi perché ci sono dei problemi sui tagli, ma soprattutto sulla non possibilità di avanzamento della carriera dei ricercatori, e soprattutto non si crede che, diciamo, questa giovane, che poi insomma giovani ormai siamo fino a un certo punto, comunque questa classe di ricercatori e quindi di professori meno integrati nel sistema non possa essere fuoriera di possibilità, e quindi, diciamo, l'ultima legge li taglia un po' la possibilità di avanzamento, e questa è una cosa gravissima, perché l'università tra un po' sarà tutta nelle nostre mani, e questo è un po' come tagliar fuori una generazione dalla, come dire, la possibilità di dire delle cose nuove e di andare avanti nell'università. Tra pochissimo siamo assolutamente convinti che bloccheremo la didattica, e quindi questo comporterà, insomma, una serie di problematiche. Grazie a Guendalina Salimei, che ricordiamo lavora anche in università. Questa era una cosa che non avevamo precisato. Un'ultima domanda invece per Maria Cristina Sorvillo, domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo o coetanea che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, anche a un espatrio? Penso che sia un'esperienza da fare, che ti apre molto la testa, che sia fondamentale per uno spirito di adattamento che noi dobbiamo un po' avere, perché viviamo un po' in una campana di vetro, con un sincero desiderio di imparare e portarsi nello zaino tanta voglia di fare, forza di volontà, determinazione e passione per la propria professione. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi, come ogni fine mese, andiamo a visitare una delle decine di sezioni di italiansonline.net, la più grande comunità virtuale e non di espatriati italiani nel mondo. Si sta chiudendo giugno, mese dei mondiali di calcio. Non poteva dunque mancare un salto in Sudafrica. Valentina Zetta, amministratrice di IOL Sudafrica, sezione che è stata appena ricostituita. Il numero di iscritti per ora siamo fermi a una decina. Abbiamo appena aperto, sì, in occasione dei mondiali, speriamo di comunque continuare con gli iscritti e comunque con la partecipazione, perché comunque è importante. Parliamo un po' degli espatriati italiani che vivono in Sudafrica, concentrandoci anche sui giovani professionisti che sono espatriati. Quali motivi li portano lì? Che tipo di professione fanno? Quelli che adesso arrivano, insomma, recentemente nuovi espatriati italiani, sono quelli che cercano nuovi mercati e comunque nuove opportunità di lavoro. Essendo un paese in via di sviluppo, è più facile magari in Sudafrica piuttosto che in Europa adesso, vista la crisi. Raccontaceli, sono giovani, sono di mezza età? Diciamo che gli italiani sono un po' nascosti. Giovani, posso parlare di me, di qualcun altro che comunque è arrivato all'università. Potrebbe essere all'università di Durban, come di Johannesburg, come di Cape Town, perché loro ricercano giovani che vogliono seguire i corsi oppure giovani che vogliono affrontare un dottorato. Io ho conosciuto molte signore, molti signori, insomma, di mezza età, che sono sono qui ormai da qualche anno. Qualcuno li ha portati all'università, qualcun altro invece li ha portati, insomma, un'apertura al commercio. Quali sono i motivi che li portano ad andare via dall'Italia? Il lavoro, essenzialmente. L'impossibilità di comunque vedere un futuro certo. Questo ovviamente soprattutto per i giovani, ma un argomento molto che se ne è dibattuto molto, insomma, questi giorni, questi anni. E il Sudafrica paradossalmente offre maggiori opportunità? Paradossalmente sì, a chi ha comunque un certo tipo di cultura, nel senso, se sei laureato e cerchi comunque nuove opportunità, il Sudafrica potrebbe essere un buon paese, perché lì manodopera ce n'è tanta, però non si ferma comunque alle scuole elementari, diciamo, quindi non è facile trovare persone con un livello culturale alto, insomma, per ricoprire certi incarichi. Per esempio, per ricoprire camerieri, operai, ce n'è tantissimo, però per altri, magari per professori universitari, per incarichi come ingegnere o per insomma altre cose simili, non è facile. Quali sono le vostre attività, se vogliamo, anche un po' in coincidenza con questa bella atmosfera mondiale attualmente in corso? Sì, adesso abbiamo tutte le luci puntate addosso. Essendo appena nati non è facile stilare un programma, però insomma l'obiettivo è quello, cercare comunque di unire gli italiani, di unire le nostre attività con quelle della Scuola Dante, che comunque è già un buon organismo in Sudafrica e quindi ci può sostenere. E per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net, sezione Sudafrica. Prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: secondo Unioncamere l'85% delle offerte di lavoro in Italia è nascosto, non pubblicizzato, cioè con trasparenza. È un sistema che taglia fuori, secondo voi, i giovani di talento e dall'apertura internazionale, ma senza le conoscenze e gli agganci giusti? Stefano ci ha risposto così. Se vogliamo parlare di chi gestisce il mercato del lavoro in Italia, non possiamo negare che l'improvvisazione è imperversa e quindi non mi meraviglio che i professionisti e tantomeno i talenti che non hanno gli agganci giusti non riescono ad accedere alle offerte, così Stefano. Non dimenticherò mai una selezionatrice di una delle tante agenzie del settore laureata in psicologia del lavoro che mi fece le stesse domande che aveva fatto in precedenza a un giovane che si candidava per un posto di frigorista, mentre io ero lì per la selezione di un direttore d'albergo. Grazie alla vostra trasmissione, ci scrive Stefano, sono venuto a conoscenza dei successi ottenuti all'estero da molti giovani che, se fossero rimasti in Italia, forse sarebbero ancora disoccupati o sottopagati. Se avessi qualche anno in meno andrei via anch'io, mi dispiace dirlo, ma qui non c'è futuro. E questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione: i salari di ingresso per i neolaureati e i giovani professionisti in Italia. Li ritenete adeguati, soprattutto se rapportati alla media europea? Il loro basso livello medio gioca, secondo voi, un ruolo decisivo nello spingere i nostri giovani professionisti all'espatrio? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E non dimenticate di visitare il blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.